Un figlio di nome Gesù. Leggo nella Bibbia, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 1, versetto 21. Ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Questo è un periodo dell'anno in cui, più che in altri periodi, si torna a parlare della nascita di Gesù avvenuta a Betlemme in Israele più di 2000 anni fa. Anche se, ad essere sinceri, non si conosce la data precisa in cui questa è avvenuta, perché Dio non ha ritenuto necessario farci conoscere tali dettagli. Per la verità, ormai, il Natale è una festa che viene festeggiata anche da chi, non essendo credente, non ha interessi particolari nella nascita di Gesù e certamente non veglierà in preghiera nella notte del 24 dicembre. E infatti ormai è entrata a far parte della tradizione occidentale come un'occasione per una grande abbuffata e per scambiarsi dei regali. Conosco persone che non credono neanche in Dio, ma augurano Buon Natale per abitudine e non rinuncerebbero ad una serata in cui si possa arrivare fino alle ore piccole, indipendentemente dalla motivazione. Negli ultimi anni, molti hanno iniziato a sostituire il Buon Natale con buone feste, o, come dicono gli americani, Season's Greetings. Insomma, qualcosa che accontenti tutti, indipendentemente dalla religione professata. Avendo dei bambini ancora piccoli, negli ultimi anni ho potuto vedere che, per accontentare la maggioranza sempre più allergica al cristianesimo, anche le feste svolte negli asili e nelle scuole sono sempre più politicamente corrette, con canzoncine che si riferiscono al Natale con generici auguri di pace, prosperità, felicità, ma addirittura senza accenni all'incarnazione di Gesù Cristo. Come credente, è ovvio, non ho bisogno di un giorno specifico sul calendario per ricordarmi della venuta del Salvatore Gesù in questo mondo, ma sarei comunque contento se per una volta anche coloro che a Gesù non ci pensano mai lo facessero. Insomma, preferirei che il protagonista di questi giorni fosse davvero il nostro Salvatore Gesù, piuttosto che quel vecchietto vestito di rosso. Ma quel simpatico pacioccone di Babbo Natale, anche lui politicamente corretto, accontenta tutti, credenti e non credenti. Nessuno può odiare Babbo Natale, mentre molti odiano Gesù. A Giuseppe fu annunciato che Maria avrebbe partorito un figlio e il suo nome sarebbe dovuto essere Gesù, un nome che nel suo significato ricorda che Dio salva. Gesù si sarebbe chiamato così proprio perché sarebbe letteralmente stato la salvezza di Dio. Infatti avrebbe dato la sua vita per i peccati non solo del suo popolo, ma di tutti i popoli della terra, di ogni epoca. Questa è la buona notizia che dovrebbe rallegrarci non solo in questo periodo, ma ogni giorno della nostra vita. Gesù è davvero venuto nel mondo, è diventato uno di noi per redimerci. Invece di pensare solo a mangiare e a scartare dei regali, perché non approfittate di questi giorni per riflettere sul grande mistero dell'incarnazione nelle vostre famiglie? Questo è il più grande regalo che potete fare a voi stessi e ai vostri figli.